245. Riso per contorno. Quando avrete per lesso una pollastra o un cappone, mandateli in tavola con un contorno di riso che vi sta bene. Per non consumar tanto brodo, imbiancate il riso nell'acqua e terminate di cuocerlo col brodo dei detti polli. Tiratelo sodo e quando è quasi cotto, dategli sapore con burro e parmigiano in poca quantità. Posto che il riso sia grammi 200, quando lo ritirate dal fuoco, legatelo con un uovo o meglio con due rossi. Se il riso invece che all'esso di pollo dovesse servire di contorno a uno stracotto di vitella di latte o a bracioline, aggiungete agli ingredienti sopra indicati 2 o 3 cucchiaiate di spinaci lessi e passati per istaccio. Avrete allora un riso verde e più delicato. Si può anche dare migliore aspetto a questi contorni restringendo il riso a bagnomaria entro a uno stampo, ma badate non indurisca troppo, che sarebbe un grave difetto.